Sezione 9 di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Fuori alla certosa di Bologna. O caro a quelli che escono dalle bianche e tacite case dei morti il sole, giunge come il bacio d'un dio, bacio di luce che inonda la terra, mentre alto ed immenso cantano le cicale l'inno di Messidoro. Il piano somiglia a un mare superbo di fremiti e d'onde, ville, città, castelli emergono come isole. Slanciansi lunghe tra il verde polveroso e i pioppi le strade, varcano i ponti snelli con fughe d'archi il fiume. E tutto è fiamma ed azzurro. Dall'Alpe, laggiù di Verona, guardano solitarie due nuvolette bianche. Delia, a voi Zefiro spira dal colle pio della guardia che incoronato scende dall'Appennino al piano, vagita il candido velo e i ricci commuove, scorrenti giù con le nere anella per la superba fronte. Mentre domate ribelli, gentili con la mano, chinando gli occhi onde tante gioie promette in vano amore, udite. A voi delle muse lo spirito in cuore favella, udite giù sotterra ciò che dicono i morti. Dormono al pie qui del colle gli avi umbri che ruppero i primi a suon di scuri i sacri tuoi silenzi, Appennino. Dormono gli etruschi, discesi col lituo, con l'asta, con fermi gli occhi nell'alto a verdi misteriosi clivi. E i grandi celti rossastri, correnti a lavarsi la strage nelle fredde acque alpestri che i salutavan Reno. E l'alta stirpe di Roma, e il lungo chiomato Lombardo, cultimo, accampò sovra le rimboschite cime. Dormon con gli ultimi nostri. Fiammeggia il meriggio sul colle. Udite, Odelia, udite ciò che dicono i morti. Dicono i morti, beati, o voi passeggeri del colle, circonfusi da caldi raggi dell'aureo sole. Fresche a voi mormoran l'acque per il florido clivo scendenti, cantan gli uccelli al verde, cantan le foglie al vento. A voi sorridono i fiori sempre nuovi sopra la terra, a voi ridono le stelle, fiori eterni del cielo. Dicono i morti, cogliete i fiori che passano anch'essi, adorate le stelle che non passano mai. Putridi squagliansi i serti d'intorno i nostri umidi teschi, ponete rose attorno le chiome bionde e nere. Freddo è quaggiù, siamo soli. Oh, amatevi al sole, risplenda sulla vita che passa, stella costante, amore. Fine della sezione 9. Registrazione di Marzia Marianera.